sentito freddo per una notte al massimo. È solo il sonno che mi dà più di un'inquietudine. Ho schemi razionali dentro i quali butto tesi sull'utile e l'inutile, e ciò che è indifferente, su ciò che mi disturba, su ciò che non ha senso. Giudice carnefice in questa finta indagine, perché se siamo troppi e l'ossigeno in comune si necessita un modello che dia una divisione. Temo questo sia il problema, questo è l'obiettivo. Non sono certo il primo, ma mi merito un riposo. E so che ci sei, e questo mi dà nausea. So che ci sei, e non vale la pena. So che ci sei, così mi sale l'ansia. So che ci sei, so che ci sei. Ma fa male quando penso che respiri. Ma fa male quando penso che il tuo cuore batte ancora. Ma fa male quando penso che non mi manca niente. E dentro sento il vuoto, e fuori manca il pianto. Lo penso e mi vergogno, lo penso e non ha senso. Io penso, penso, penso, penso fino a quando vomito. E quando sono stremato spero solo che nel sogno io veda solamente un letto ed un cuscino. Ma è lì che inizia l'incubo. Io vedo quelle mani, vedo rosso dove prima vedevo solo il grigio. E mi manca tantissimo, io voglio solo nuvole, così che poi le possa attingere poesia e plasmare su una pietra la mia firma, la mia immagine, così da dare un senso al tempo che ho investito, mettendo una distanza tra le nostre esistenze. E finalmente, infine, ritrovare il sonno. Ma so che ci sei, e questo mi dà nausea. So che ci sei, e non vali la pena. So che ci sei, così mi sale l'ansia. So che ci sei, so che ci sei. Ma fa male quando penso che respiri. Ma fa male quando penso che il tuo cuore batta ancora. Ma fa male quando penso che non mi manca niente. E dentro sento il vuoto, e fuori manca il fiato. Ma fa male quando penso che respiri. Ma fa male quando penso che il tuo cuore batta ancora. Ma fa male quando penso che tu non vali niente. E dentro sento il vuoto, e fuori manca il fiato. Quando penso che tu non vali niente, e dentro sento il vuoto, e il fuoco che manca il fiato.